se dovessi trovare una macchina dei tifosi della Juve che bucano una ruota, io mi fermo e li aiuto. Massimo, Massimo, possiamo centrare un posto in Champions. Chiedo a lei che conduce una trasmissione così credibile e seria. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao a tutti amici miei, vi convoco come ogni giorno 800 24 00 24, Franco Pietrini, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia. Voi lo sapete che io ho un debole per il presidentissimo, che aveva detto: annuncerò via Twitter, perché così ormai funziona in tutto il mondo, se non twitti non sei nessuno, e infatti io non sono nessuno e ce l'ha fatta. Ieri sera ha twittato l'ufficialità del nuovo allenatore e secondo me ha avuto una grandissima idea nello scegliere questo allenatore. Ho concluso il mio ciclo, 4 anni a Napoli, stupendi. Il nuovo allenatore mi deve convincere per le palle che c'ha, e le palle sono rotonde, quindi la circolarità del convincimento deve essere totale. Rafa Benitez per il Napoli da ieri sera è ufficiale, l'ho detto, secondo me è una grandissima idea quella di ingaggiare il professore che si porta in valigia una Europa League, o se preferite una Coppa UEFA, visto che la forma, grazie a Dio, ancora quella della vecchia Coppa UEFA, un terzo posto conquistato con il Chelsea, un fallimento con l'Inter che fa curriculum. 800 24 00 24, intanto oggi Bronzetti, poi lo sentiremo, dice che addirittura che crede che Cavani resterà al Napoli e che Higuain va verso la Juventus al 70%, non credo né a una cosa né all'altra. Filippo Merericci dalla Spagna, uno che, brava Benitez, con quel coro che era quello che avete sentito, era il coro dei tifosi del Liverpool per Rafa Benitez, chissà se verrà mutuato anche dalla curva napoletana, verrà copiato o si inventeranno qualcosa di nuovo, di diverso. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Lo conosci bene tu Benitez, il prof sì. Ci riprova con l'Italia. Beh, giustamente, sì, io l'ho conosciuto quando era a Liverpool, che è stato insomma un grande momento per lui, buone cose anche a Valencia, poi si è lasciato in maniera un po' amara, ma questo è un classico, Valencia è complicata la sopravvivenza, e ottimo a Liverpool, e poi quella sfortunata parentesi nerazzurra, dove però lui ha lasciato comunque 2 titoli in pochi mesi, che poi Mourinho venga a dire che era grazie a lui, perché gli aveva offerto queste finali, no? Ti ricordi? Sì, certo, merito mio, perché l'ho messo lì, cioè esatto, l'ho messo la palla sul dischetto. Certo, va bene, e comunque anche lì, e poi questa stranissima storia col Chelsea, per me è abbastanza incomprensibile, secondo me non doveva accettare per quelli che sono i rapporti tra le due tifoserie, insomma il suo passato inglese, però alla fine ha dimostrato ancora una volta enorme carattere, grande forza, una scorza durissima, perché gli erano dette di tutti i colori, l'hanno osteggiato dal club che scriveva sul programma, no, stilato dal Chelsea, c'è scritto allenatore ad interim che non mi sembra proprio una bella presentazione, no. E lui ha resistito a tutto e ha portato la squadra al terzo posto, che vale la Champions diretta, e soprattutto ha vinto l'Europa League, e alla fine lo hanno anche ringraziato. Sì, ma ci mancherebbe altro. Dopo che gli hanno detto tutti i colori, però no, per me è una scelta azzeccatissima. Adesso ho qualche dubbio solo sulla, sulla durata, sulla tenuta del rapporto tra De Laurentiis, ecco, e questa, questo è una, un aspetto interessante, il prof, sì, con De Laurentiis. Ma a parte questo, Filippo, sai che noi qui parliamo senza tantissimi peli sulla lingua, perché è meglio così, no? 800 24 00 24, tu dici mi piace molto l'allenatore, un po' meno l'uomo Benitez, perché? Beh, è un personaggio complicato, eh. È uno che vive in maniera molto conflittuale le cose, non, mm-hmm, è, non ha un carattere, diciamo, adorabile, insomma, sì, è un personaggio spigoloso, molto convinto dei propri mezzi, che questo va bene, però a volte magari sarebbe necessario un approccio diverso, e vediamo come va a finire con De Laurentiis. Benitez ha un carattere per me complesso, sì, qui al Madrid ha cominciato, non hanno, no, di lui un grandissimo ricordo, lo definirei spigoloso, sì, questo è. E quindi di fronte a un presidente altrettanto spigoloso o decisamente esuberante, e questo può essere il problema principale. Sì, qualche scintilla si può anche prevedere, non che Mazzarri fosse un personaggio morbido, uno stinco di santo, o uno che non, infatti, aveva un carattere facile, insomma, quindi sì, ci sono. No, però l'allenatore è, io sono contento soprattutto per la Serie A, perché questo è un grande allenatore, visto che ultimamente qua c'è un po', no, diciamo, da noi non ci vuole più venire nessuno, ecco, questo è un grande acquisto, e sono contento soprattutto in chiave Champions, perché io sono sicuro che possono far bene. Adesso un uomo di grande esperienza europea, certo. Noi abbiamo bisogno che le squadre italiane facciano bene in Europa. Adesso quest'anno c'è la Juventus, che secondo me è attrezzata, e speriamo che il Milan passi il preliminare, e poi abbiamo il Napoli, che con un allenatore così cambia completamente. Abbiamo visto, insomma, il Napoli in Europa con Mazzarri ha sofferto, ha pagato molto dazio, secondo me anche con delle scelte sbagliatissime in Europa League, dove si faceva turnover, uh-huh, quando in realtà secondo me il Napoli avrebbe avuto un gran bisogno di vincere l'Europa League. E vedrai che con Benitez certe cose non succedono, e invece ci sarà grande attenzione all'Europa, certo. E spero, insomma, è chiaro che poi dopo l'obiettivo è sempre quello di vincere lo scudetto in Italia, no? Sembra esista solo la Serie A, però insomma io spero che Benitez possa portare il Napoli a far bene, ovviamente, sì, serve un anche respiro, un certo internazionale, come peraltro aveva fatto Mazzarri due stagioni or sono, perché non dimentichiamo il cammino che aveva fatto comunque anche lui in Champions League, che era stato meraviglioso. Senti Filippo, ti chiedo un attimo di pazienza, mentre c'è il pueblo diviso, no? C'è chi scrive: non sono convinto che Rafa sia giusto per Napoli, perché serve polso e conoscenza del territorio. Questa conoscenza del territorio per me è un po' misteriosa. Lui è un grande, ma forse non l'uomo giusto, scrive Andrea da Trento, mentre Lori da Milano. Benitez porterà lo scudetto a Napoli, che ne pensa? Scudetto a Napoli mi sembra tanta roba. 800 24 00 24, numero verde, poi vi raccontiamo anche della demolizione di Stramaccioni che ho letto oggi sul giornale. Filippo Mararici, stai lì un attimo, che poi parliamo di Carletto Ancelotti, di Cannavaro, di Neymar e di Higuain. Strade. State calmi, state manzi, si dice a Roma, state manzi, state tranquilli, che il ragù viene fuori, pure buono. Tutti convocati. Dunque, sempre collegato con noi dalla Espagna, Filippo Mararici, corrispondente della Gazzetta dello Sport, dove tra l'altro avrete anche visto, letto, sentito i tifosi del Manchester City hanno acquistato una pagina della Rosea per ringraziare pubblicamente mister Roberto Mancini, che è tornato in campo in un derby d'antan, e quindi attestato di stima in rosa per Mancini. Senti Filippo Mararici, allora arrivano Ancelotti, oggi Marca scrive che avrebbe chiesto Cannavaro come vice. Sì, io ho fatto... che ha fatto un tweet abbastanza demenziale questa mattina. Si è parlato prima di Makelele. Cosa hai scritto? Poi dopo... no, che si è parlato prima della Makelele. Ieri si parlava di Crespo, oggi Cannavaro. E qui quando è, dico, beh, allora mi sono candidato anch'io. Benissimo. Dico... hai fatto no, solo bene. Può essere che l'abbia cercato. Non sarebbe una scelta sbagliata, perché Cannavaro è stato qua 3 anni, conosce bene l'ambiente, è apprezzato. Ci può stare. l'ipotesi Machelele, che è stato con Ancelotti al Paris Saint Germain, sarebbe altrettanto valida, però Machelele non ha un buon rapporto con Florentino Perez, che lo scaricò in malo modo, salvo poi non vincere più nulla più o meno, perché non si era accorto che Machelele, che a lui non piaceva tanto, reggeva tutto il centrocampo del Real Madrid, sì, quando giocavano tutti insieme Solari, Figo, Zidane, Ronaldo e McManaman. E ricordo bene, quella è sempre stata la specialità di Machelele anche nella Francia, cioè reggere da solo un reparto di stelle. Tenere le stelle per la coda, insomma. Quindi così, no, ma figurati, io sarei contentissimo, però vediamo, manca ancora Ancelotti in tutto questo. E in tutto questo sì, manca questo particolare, questo dettaglio. Però guarda, secondo me è abbastanza semplice. Arriva. Se non ti presenti entro domenica, domenica scade il termine per presentarsi alle elezioni del Real Madrid, cosa abbastanza semplice da fare, devi essere socio da tipo 1000 anni e devi avere portare una fideiussione da 75 milioni di euro, quindi praticamente non si candiderà nessuno salvo Florentino, quindi Florentino sarà eletto per acclamazione qua della Repubblica Bulgara del Real Madrid, e annuncerà il nuovo premier, e dopo annuncerà l'allenatore, anche per un po' cercare di qui ti lancio un assist per il tuo secondo nome, per cercare di, come si può dire, sminuire l'impatto dell'arrivo di Neymar previsto per il 3 o il 4. E Neymar, appunto, Neymar che ha firmato con il Barcellona, contratto di 5 anni, guadagnerà meno di Messi ma circa quanto Kakà, si dice, quindi tanti soldi. E adesso tutti aspettano fuochi d'artificio a Barcellona. Adesso dove lo mettiamo qua, ragazzo? Vediamo. Non so, dimmelo tu. Allora, intanto abbiamo 8 attaccanti al Barcellona e qualcuno forse dovrà essere venduto, no? Sfoltire la rosa, sì. Sì, la rosa la sfoltiamo, sono 3 posti di cui 2 già presi da Messi e Neymar, poi uno potrebbe essere Sanchez oppure c'è Pedro, e poi restano dietro Villa, Fabregas, De Ulofeo, Teglio e non so chi altro. Torna anche Quenta dall'Ajax, quindi insomma, me lo sono anche dimenticato. Bisogna vendere, poi bisogna vedere tatticamente come si sistemano, e questo non dovrebbe essere un gran problema, però ovviamente il problema principale è vedere se il piccolo Leo si mangerà il piccolo Neymar o lascerà che cresca e che quindi inevitabilmente gli tolga un po' di spazio, perché spazio soprattutto, se non tanto in campo, soprattutto a livello diciamo di media, pubblicità e via dicendo. E pare che i due vadano molto d'accordo, grazie a Dani Alves, che è amico di entrambi, poi sai, se a un certo punto... Poi devo ancora vederli, un italiano, un brasiliano e un argentino che vanno perfettamente d'accordo. Se Neymar comincia a fare 3 gol a partita e Messi ne fa solo uno... Poi vediamo. Teoricamente, ma anche questa è una grandissima notizia, insomma, io non vedo l'ora. Cioè, per me Neymar ha veramente tutte le carte in regola per far bene, voglio vederlo qui perché ha 21 anni, chiaro, è diverso, però guarda che se fa bene, questa è una grandissima notizia per il Brasile, perché se Neymar fa bene in Europa non c'è dubbio, aggiunge Brasile quello che gli manca per essere veramente una superstar mondiale, non ci sono discussioni su questo. Filippo, ti ringrazio, ti abbraccio, salutami Mourinho naturalmente, va bene, certo, Ancelotti, Ancelotti, certo. Neymar e anche Cannavaro, Machelele o chi vuoi tu. Va bene. Grazie. Ciao. Filippo Maria Ricci. Allora, io voglio parlare con voi. 800 24 00 24, numero verde messaggi 349 238 6666. Intanto, a proposito di media, in questo caso francesi, sapete la storia che leggete oggi sui giornali, allora Allegri va, non va, la Roma stamattina si diceva che c'era un vertice a Roma tra Sabatini e Baldini proprio per discutere la nuova Roma di Allegri. Bene, se non si dovesse fare questo matrimonio, in Francia scrivono che sulla panchina della Roma andrà Laurent Blanc, secondo me ci andrà Allegri e vedrete che forse questa volta non mi sbaglio. Tanto Benitez ha già una statuina nel presepe napoletano, andate sulla nostra pagina Twitter per vedere la foto, immancabile statuina. Giuseppe Caserta, buongiorno, grandi auguri per la trasmissione, prima di tutto. Grazie. No, mi chiedo semplicemente intervenire su Cavani, ecco qua, lo domando. Cavani, pronto? Sì, la sento. Ah, per dire solo questo, che Sono un Napoli in mente che non vedi Cavani perché sono un campione e quindi non è sostituibile con gli altri giocatori in cui ho sentito Zeko e non so qualche altro monumento in mente. Comunque, ma Fernando Torres è allenato fino a oggi praticamente da Benitez, in parte rilanciato, ha vissuto diverse stagioni molto complicate, ma rimane un super giocatore. Insomma, io più che Dzeko, Torres al Napoli, dovesse partire Cavani, che Giuseppe partirà perché quei soldi qualcuno li tirerà fuori, sono una montagna e non si può dire di no. E De Laurenti si guarderà bene dal dire di no a chi staccherà quell'assegno da 63-60, quello che è. Però sull'argomento c'è chi invece la pensa come il nostro ascoltatore, che il nostro ascoltatore spera. Ernesto Bronzetti, invece, noto mediatore internazionale, dice Cavani starà lì. Quella è una clausola di 63 milioni cash che, nonostante, ripeto, ci siano questi magnati, questi sceicchi che possono anche farlo, però Cavani ambisce un club importante, è monitorato perché è uno dei migliori attaccanti al mondo che stanno in circolazione. Monitorato non significa che il Real Madrid l'ha trattato o che lo stia per trattare. Io credo, è una mia sensazione, che rimane al Napoli. La sua sensazione che rimane al Napoli, aggiunge che Higuain al 70% della Juventus, io non credo né a una cosa né all'altra, però questa è assolutamente un'opinione personale. Angelo da Treviso, 800240024, poi vi racconto un po' di stramaccioni. Angelo, dica. Buongiorno, dato per iniziativa la trasmissione. Grazie. Domanda velocissima, lei non crede che il cosiddetto anno zero dell'Inter, perché noi siamo all'anno zero, sia una meravigliosa occasione per cominciare un nuovo corso fatto di giovani, qualche chioccia in squadra, per finalmente ripartire dopo il disastro degli ultimi 3 o 4 anni? Posso fargli una domanda? Prego. Secondo lei è possibile ripartire con la combricola degli argentini, oppure quel cordone ombelicale con il passato va tagliato? A dirgliela tutta, l'unico argentino che secondo me può ancora rimanere in squadra è Milito. Per il resto vedo un muscolo di giocatori spremuti, per quanto Samuel sia stato il difensore più forte al mondo. Non c'è dubbio, non ne sto neanche discutendo il valore, ne discuto la carta d'identità e soprattutto il peso specifico che hanno dentro a quello spogliatoio, presso l'opinione pubblica, presso la dirigenza, la presidenza, eccetera. Cioè, qualunque nuovo allenatore, per essere totalmente libero, Mazzarri compreso, che pure è uno scafato e navigato, deve avere mano libera, e secondo me è molto difficile ricostruire se esiste uno zoccolo duro di giocatori così importanti, così pesanti presso, come dicevo, opinione pubblica, tifosi, eccetera, eccetera. Intanto si diceva di stramaccioni. Male, male, ma quale bene, bene, male, male, male, male, un disastro. Lei, caro Angelo, parlava di Inter, allora lo faccio anch'io dopo aver letto l'articolo di oggi di Fabio Monti sul Corriere della Sera. Fabio Monti, che considero per esperienza e profondità di conoscenza di quell'ambiente la voce più autorevole in materia di Inter. Stramaccione, esonero inevitabile, dopo Torino ha perso la bussola. Sottotitolo Cassano, Snyder, caos tecnico-tattico, allenamenti, un disastro. E Fabio Monti scrive che Pazzini sarebbe rimasto volentieri all'Inter, ma Stramaccioni ha voluto un attaccante diverso da affiancare ad un Milito che considerava intoccabile. Non ha più voluto Snyder perché lo considerava inutile per il suo 3-4-3, per le questioni comportamentali, compresa la scarsa voglia di allenarsi. E poi scrive Fabio Monti: al resto ha provveduto Branca con l'intervento televisivo su Sky, che ha fatto perdere a Moratti un po' di milioni, essendo passati dalla cessione alla svendita, ma questi sono gli uomini dell'Inter. Quindi si passa all'analisi molto puntuale e dettagliata dell'amico Fabio Monti sulle colpe di Stramaccioni. Chissà se siete d'accordo, 800240024. Il tecnico dovrebbe spiegare se è colpa dei direttori, del medico o di Moratti se ha perso due volte con il Siena, la prima a San Siro con la squadra al completo. Se era un Inter presentabile quella uscita dal campo tra gli sfottò di Firenze, Se è regolare far giocare Samuel centravanti, se è giusto cambiare in continuazione il sistema di gioco fra primo e secondo tempo, se è giusto impiegare un tempo nel derby per arrivare a quei ritocchi tattici segnalati in TV da Bergomi al quinto del primo tempo, se è stata una grande idea insistere su Schelotto e ancora se pensa di aver allenato bene la squadra oppure se gli infortuni non sono state le conseguenze di sedute piene di vuoto, come certificato da chi ad Appiano c'è stato e ha visto il tipo di preparazione della stagione. Non essendo in grado di correre al ritmo degli avversari, i giocatori in partita hanno continuato a subire infortuni muscolari. Questa è la tesi di Fabio Monti. Dire che ha dovuto allenare poco la squadra per colpa degli altri, d'altronde è stato lui ad affidarsi agli argentini, significa possedere poca personalità. In ogni caso Stramaccioni dovrebbe sapere che di fronte a una situazione insostenibile esiste l'istituto delle... non praticato, caro Fabio, come tu sai benissimo, delle dimissioni. Ma i soldi di Moratti fanno comodo anche agli allenatori rampanti e incompresi. Borsa. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sembra allora, un po'... No, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. Tutti convocati. Allora, Paolo da Bologna già in linea, 800240024, vi potrei chiedere anche cosa ne pensate dell'esclusione, dell'estromissione di Osvaldo da parte di Prandelli, secondo me è sacrosanta, ma qualche maligno potrebbe anche pensare Osvaldo ha fatto tutto questo casino apposta, così si salta l'inutile Confederation Cup e vola a Formentera oggi, No, non credo che sia così, altrimenti sarebbe veramente un pazzo, no? E neanche vincere la Coppa Italia serve a farla parlare di Lazio. Andrea da Modena sarà perso la puntata di ieri in cui di Lazio abbiamo parlato volentieri come sempre e a lungo, e comunque se vuole chiamare 800240024 siamo qui. C'è chi scrive: allora basta Fabio Monti e i suoi amici giornalisti condannati da quattro soldi penosi come lei. Allora io condanne no, neanche Fabio, da quattro soldi anche da due io. Penoso, io va bene, lo accetto. Fabio Monti invece è un professore. Evidentemente chi scrive segue solo le veline, non quelle di Striscia la Notizia, ma quelle del Comintern nerazzurro, e guarda solo la TV di Stato Interchannel. Se volete non vi raccontiamo le cose, allora ci fidiamo dei bollettini. Cosa dice ascoltatore anonimo? Paolo Bologna, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Allora, da dove partiamo? Assolutamente interista, e credo che ormai, come dire, per seguire le vicende del mondo del calcio bisogna uscire dallo sport e ahimè dall'Italia. Io vorrei dire di questa cosa che per motivi di lavoro sono conoscenze da un po' di tempo, può sembrare forse fantascienza, ma si dice, notizie vengono dall'Inghilterra, che la manovra in atto sarebbe la seguente: i Moratti vogliono cedere l'Inter, credo che questo si sappia. Sta montando una new company cosiddetta, sì, che rileverebbe la maggioranza. L'ho letta anche oggi, quella thailandese? Non solo, però cosa comporta? C'è tutta un'altra manovra a cui a capo per un certo periodo di tempo potrebbe rimanere Moratti come presidente con una piccola quota dell'Inter, una sorta di transizione, e comporterebbe probabilmente il ritorno di Mourinho. Quando? Mourinho investe sì di allenatore ma di manager. Consideriamo che questa è un'operazione che avrà un tempo di circa 3 anni, dove era in preventivo. Attenzione. E uno, perché Mourinho potete immaginare che non potrebbe mai allenare l'Inter attuale è una squadra però sa che qui un piatto di minestra lo trova sempre, e infatti non manca di sottolinearlo tutte le volte. Adesso vado là perché devo andare. Però anche, l'Inter. Anche perché si ritrova in una situazione difficile Mourinho ora, perché lui ha sempre detto che non farà come Pellegrini, che andrà a allenare al Malaga, ma di fatto si ritrova solo col Chelsea libero. Sì. E il Chelsea adesso se ne sta approfittando, gli sta chiedendo un contratto di un anno in Paris più. Paris Saint-Germain anche Paris Saint-Germain, però volendo. È un campionato poi sicuramente meno interessante. Sì, meno interessante, però c'è il grano e c'è la possibilità di fare molto bene in Europa. Attenzione, Paolo da Bologna dunque ci ha disegnato questo. Io lo ringrazio, ci ha disegnato questo scenario. Allora, Newcom è interessata all'Inter, thailandesi ma non solo, operazione da realizzare in 3 anni, acquisto della maggioranza delle quote, Moratti che rimane formalmente al timone, non ho capito se per un anno, due o tre, anche se io continuo a pensare che nessuno, neanche quelli che vengono dalla Thailandia, mettono i soldi e fanno gestire le cose a qualcun altro, perché sarebbe una cosa unica al mondo e non solo al mondo dello sport, perché nessuno mette i quattrini e fa comandare gli altri. Comunque, questo scenario, entrano con la maggioranza, Moratti resta al timone, fra tre anni torna Mourinho e il sole torna a splendere nel cielo di Milano. Non lo so, è stato bello ascoltare comunque questa ricostruzione, poi vedremo se sia vera. Com'era vera quella voce? Non so, se un giorno vi ricordate, ogni tanto ne azzecco qualcuno anch'io, qualche tempo fa, quando dissi che un uccellino, non quello di Del Piero, mi aveva detto che Mazzarri sicuramente sarebbe stato allenatore dell'Inter. Allora si parlava ancora, parlo di un mese fa, pareva che Stramaccioni fosse confermato. Non è stato così, è arrivato Mazzarri. 800 24 00 24, il numero verde. Ciao, forse stavolta rispondi, ma perché non ci dovrebbe credere ad Higuain alla Juve, scrive Francesco. Ma non lo so, io non lo vedo Higuain alla Juventus, perché guadagna probabilmente troppi soldi e non penso che la Juventus abbia voglia di dare quell'ingaggio ad Higuain. Io vedo molto vicino alla Juventus invece Jovetic, di cui si continua a parlare. Gianni La Spezia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Volevo parlare dell'Inter. Sì. Aspetti, allora, la faccio parlare dell'Inter, però prima mi dica due cose, visto che... Allora, come vede Benitez al Napoli, punto primo, e come giudica l'esclusione di Osvaldo da parte di Prandelli? Ma Prandelli, io Osvaldo l'avrei convocato. Se c'è il codice etico, c'è il codice etico. Uno che scrive, che dice, si comporta così, che scrive quelle cose al suo allenatore... E Twitter ormai, anche il presidentissimo l'ha adottato. Quello è vero, ma parlando anche di Osvaldo e della Roma, devo dire che allora Zeman, che ammiro, ha azzeccato tutto, sia su De Rossi, sia su Totti e sia su Osvaldo. Quindi per la Roma è stata veramente un autogol mandar via un allenatore come Zeman. Ma non lo so, non è che andassero benissimo, non so cosa abbia azzeccato. Però tutte le squadre di Zeman ha sempre finito molto bene la stagione. Non mi sembra ci fossero i presupposti. Forse la società doveva dare un po' più carta bianca Mi sembra che ne abbia data anche moltissimo di carta bianca al mister. Benitez a Napoli come lo vede? Benissimo, e siamo in due. Benissimo, perché Benitez ha fatto benissimo anche all'Inter. Giocavano i vari Pianbianì. Purtroppo c'è un clan argentino. C'è il clan argentino e c'è anche il presidente che non Benitez non lo voleva, perché questo si sa, non voleva Benitez e non voleva Gasperini, questo è noto ed è finita questa storia come lei sa. Voleva dire dell'Inter? Che voleva dire? Che è ora veramente, se hanno dato tantissimo il gruppo degli argentini, ma la riconoscenza dovrebbero averla loro facendosi da parte. La riconoscenza non deve essere della società, ma deve essere veramente loro che hanno dato tanto, hanno avuto tanto, ma devono farsi da parte. Bene, e se loro... Un capitano non può pensare solo a battere i propri record personali. Sì, certo, Gianni, lei ha ragione, però questo nell'ipotesi, se non lo dovessero fare loro, perché non può farlo la società? Questo non lo capisco. Cioè, perché la società dovrebbe essere lì ad attendere che gli argentini salutino tutti e dicano vabbè, adesso me ne vado, perché? Cioè dovrebbe essere un discorso comunque di competenza della società, cioè capire dell'allenatore, capire quando una storia è finita. D'altra parte anche il Milan, che adesso richiamerà Seedorf, forse leggo oggi un po' di parti potrebbe richiamare Paolo Maldini, non capisco in quale

siamo dei giocatori, tutti i giocatori italiani quest'anno sono ulteriormente cresciuti perché si sono trovati protagonisti, è indispensabile alle proprie squadre in Serie A. Quindi io penso che sarà un'altra bella estate, dovremo sicuramente ricreare il clima della scorsa, cioè, ovvero una squadra che con tantissima voglia di lavorare, tantissima applicazione per lo spirito di squadra, che è quello che ci ha portato al successo. Unito con i talenti individuali potremo continuare a divertirci, mi auguro. Senti Gigi, ci vediamo domani sera a Cantù, così a fine partita ti suggerisco qualche canzone da mettere. Ecco, così mi aggiorni un po' coi tempi. Sì, ci vediamo domani sera a Cantù. Grazie Gigi. Perfetto. Buon viaggio. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Gigi D'Atome, MVP del nostro campionato e condottiero di Roma, sul 2-0 con Cantù. Questa sera, come sapete, si gioca a gara 2 tra Varese e Siena. Strade, poi torniamo con voi. 800 24 00 24. Tutti convocati. Ognuno ha le sue opinioni se le tiene, come chi scrive Zeman grande immenso e De Rossi una nullità a 6 milioni l'anno. Definire Daniele De Rossi una nullità, lasciamo stare quello che guadagna, lasciamo stare quel contratto che è stato firmato e nessuno ha costretto la Roma a firmare quel contratto perché De Rossi lo voleva mezzo mondo del calcio e la metà che conta, quindi saremo un po' tutti fessi. Noi che pensiamo che De Rossi sia comunque un grande giocatore, fesso anche Prandelli, che ovviamente si guarda bene dal non convocare De Rossi. Comunque, questione di gusti. Giancarlo Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie, siamo qui. Grazie a lei. Senta, parlare di D'Atome è qualcosa di fantastico. Però le due partite che ha recuperato Roma su Cantù è uno scandalo arbitrale. Lei sta parlando di arbitri, eh? Sì. Perché certe cose, tipo Laval è un gran atleta e tutto, ma è un fabbro sotto i canestri, picchia e basta, non gli picchiano mai niente. Sì, Cantù è una squadra che non gioca in punta di Fioretto, poi ieri sera nel finale ci sono stati un paio di fischi di traverso per Cantù. Roma perché Cantù è una provinciale. No, ma Cantù non è una provinciale, Giancarlo, faccia il bravo, nel basket è una grande, cosa sta dicendo? Sì, è grande. È la storia della pallacanestro. Ma non la vedo così, poi vediamo come va domani sera. Il peccato capitale di Cantù, secondo me, in queste due partite è che è l'essersi lasciata sfuggire. E un giorno, anzi, domani sera lo vado a chiedere a Trinchieri, così mi prendo magari anche un pugno. Essersi riuscita, come sia riuscita a farsi sfuggire una gara 1 che aveva in tasca. Ora non so se è stato un calo di concentrazione, di tensione, però quello è stato un errore capitale. Ieri sera, invece Roma ha tenuto in mano la partita e, come inerzia secondo me, poi se vogliamo parlare di un paio di fischi arbitrali nel finale facciamolo pure, ma non mi sembra un fattore così determinante. Massimo Treviso. Salve, buongiorno. Buongiorno. Senta, una considerazione sul mercato della Juventus, al di là dei grandi nomi che sinceramente io dei juventino mi auguro che arrivino, ci mancherebbe altro. Però mi piacerebbe anche che venissero considerati dei giocatori che ci sono già nel campionato italiano. Sì. Parlo soprattutto magari per le fasce, gente come Lulic, sì, come Biabiani. Sì. Io credo che potrebbero essere molto utili alla causa bianconera. Poi vabbè, sappiamo che c'è bisogno di un finalizzatore, perché sia Higuain o io preferirei un Ibrahimovic, anche se questo sia un sogno. Un sogno molto costoso, ma non so neanche, cioè sono due giocatori non paragonabili. Io dico che uno che ha il carattere e le caratteristiche di Ibrahimovic richiederebbe una profonda revisione di questa squadra che gioca in un'altra maniera. Lei sa che quali sono le caratteristiche di Ibrahimovic. Io lì davanti, voi portate l'acqua, me la date e poi vedo di pensarci io, perché la Juventus gioca in modo profondamente diverso, quindi non so. Quindi un Higuain come lo vede lei allora? Ideale o no? Sì, è un ottimo giocatore, un grande giocatore, però guadagna un sacco di soldi. Io non credo che la Juventus voglia svenarsi e rompere magari gli equilibri interni per Higuain. Mi vedo molto bene Jovetic anche per le caratteristiche che ha, all'interno del gioco della Juventus. Poi non lo so, dicono che Real Madrid Benzema non lo venda, però io dovessi scegliere tra Higuain e Benzema non avrei mezzo dubbio a favore del francese. Grazie Giovanni. Franco da Lecco, e poi facciamo un regalo a Capitan Fabio Cantadori. Franco? Sì, buon pomeriggio. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Per la semplicità con cui fa le sue affermazioni, molto drastiche ma semplici, sicure e corrette. Io sono un tifoso interista, ma un grande tifoso di Varese Basket. Noto però che Varese, quando gioca contro Siena, dimostra tutta la sua fragilità. Siena da squadra esperta ha recuperato anche parecchi giocatori. E, insomma, se stasera stravince Varese vedo ancora una prospettiva, ma ho l'impressione che se invece farà una partita tirata poi la vedo dura ribaltare il risultato. Sì, ma sa anche lei Franco che nei playoff poi alla fine vincere di 46 o di 1. Però vedo che già Coppa Italia ha insegnato come Varese dominatrice in tante gare. Quest'anno mi sono riappassionato a questa squadra, alla sua storia, come molti, alla sua forza. Però vedo che quando gioca contro Siena, porco pane, quest'anno non... Allora Franco, Siena è forte, cioè onestamente Varese e Sassari hanno giocato veramente, anche Sassari la migliore, mai morta veramente quest'anno. Hanno giocato la miglior pallacanestro stagionale dal punto di vista estetico, della qualità, del rapporto tra i giocatori che hanno, i risultati che hanno saputo spremere e la qualità del gioco che hanno saputo mettere in campo. Tra Siena e Varese, insomma, per me la favorita rimane comunque Siena, ma perché è più lunga, perché è più grossa, perché ha più talento, perché per tutti questi motivi che nei playoff, giocando una volta ogni 48 ore, alla fine si sentono. Quindi è vero che Varese si è liberata di Venezia in una serie meno difficile rispetto a quella che ha dovuto giocare Siena contro Milano, però sinceramente sia Roma che Varese, secondo me, poi vorrei tanto essere smentito e vedere questa finale Varese-Siena, mi piacerebbe da morire, però sono qualcosa di diverso rispetto alle avversarie. Bene, ci fermiamo e adesso a grande richiesta, glielo facciamo volentieri questo regalo, di Capitan Fabio Cantadori che è in regia, c'è anche Franco Piantanida in redazione, questo è anche per lui. Allora, vuole ricordare i 10 anni della finale di Champions League di Manchester vinta dal Milan. Ci sentiamo domani. Shevchenko, tiro ed è rete! Rete! Rete! Il Milan è campione d'Europa!